La prima cosa che la Mishnah che abbiamo studiato dice è che se una persona stava leggendo un sefer, ricordiamoci che una volta non c'erano i libri stampati, allora per studiare la Torah si studiava sul rotolo di pergamena del sefer. E qualcuno stava leggendo il sefer e mentre leggeva il sefer, come diceva Davide, è arrivato il tempo in cui si recita lo Shema, perché lo Shema ha dei tempi predeterminati, sia di mattina o di sera, in cui c'è l'obbligo di leggere lo Shema. Allora, che sia stato di mattina o di sera, indifferentemente, è arrivato quel momento. Allora la Mishnah dice: se è stato intenzionato in kiven libo, appunto, se ha tenuto l'intenzione, allora esce l'obbligo della mitzvah, della lettura dello Shema, anche se stava leggendo il Sefer comunque. Vuol dire, lui legge il Sefer e per caso, tra virgolette, legge proprio quei brani in cui è scritto lo Shema sulla Torah. Allora dice, se era intenzionato, esce l'obbligo. Ora la domanda che ci chiediamo, cosa vuol dire se era intenzionato? Intenzionato a far che? Cosa è esattamente questa definizione se era intenzionato? Questa è la cosa che la Gemara vorrà adesso capire e approfondire e anche vedere se ci sono delle eventuali conseguenze della conclusione alla quale arriveremo. Allora, sul testo del Talmud, se volete guardarlo qui, è sulla pagina 3 dove c'è scritto Gemara, che c'è anche con l'italiano, eventualmente se no sulla pagina originale ce l'abbiamo. Qui dove è segnato in lettere grandi Gemara, Gimel Mem, l'abbreviazione di Gemara. Allora, la Gemara, prima di dire cosa vuol dire, come se desse per scontato, che vuol dire che ha avuto l'intenzione di uscire l'obbligo della mitzvah della lettura dello Shema, cioè oltre al fatto che questa persona stava leggendo il Sefer, ha tenuto in mente, mentre arrivava a quei brani dello Shema, che lo sta leggendo anche proprio per la mitzvah della lettura dello Shema, come se facesse tefillah, diciamo così. Ok? E la Mishnah ha detto che se lui ha questa intenzione, esce l'obbligo della mitzvah. E non deve ripetere, ha già fatto la mitzvah. Allora la Gemara arriva subito ad una conclusione. Vediamo qual è questa conclusione. Dice la Gemara, Shema Mina si deduce da ciò, cioè possiamo dedurre da quanto abbiamo detto nella Mishnah in questa prima frase, che cosa? Mitzvot tzerichot kavanah. Che le mitzvot richiedono una kavanah, una intenzione, per poter uscire l'obbligo della mitzvah. E se ha fatto una mitzvah, ma senza tenere in mente che vuole fare quella mitzvah, vuol dire sta facendo una cosa, ora vediamo l'esempio, sta facendo una cosa comunque, sta facendo una cosa comunque, ed è anche una mitzvah, ma non la fa per la mitzvah, lo fa per un altro motivo, non esce l'obbligo. Prego, prego, buongiorno. Non esce l'obbligo. Perché la Gemara sta dicendo questo? In realtà la Gemara sta dicendo questo per continuare una conversazione che la Gemara, una discussione che la Gemara ha già tenuto nel trattato di Rosh Hashanah. Nel trattato di Rosh Hashanah si parla, tra le altre cose, della mitzvah di suonare lo shofar. Ora la Gemara parla lì del caso in cui una persona sta usando uno shofar senza l'intenzione di suonarla. Magari sta soffiando per pulirla o sta facendo qualche altra cosa e gli è venuto fuori un suono che avrebbe potuto essere un suono dello shofar, però non era quella la sua intenzione. Esce d'obbligo della mitzvah, se era Rosh Hashanah, o non esce d'obbligo della mitzvah? Allora lì c'è l'opinione di Rabbah. Rabbah è un grande Amorà, un grande maestro della Gemara, successivo alla Mishnah, che dice che chi suona lo shofar per cantare, per fare musica o per un altro motivo, cioè si sta occupando di un'altra cosa, Esce l'obbligo della mitzvah dello shofar anche se non ha avuto quella intenzione in mente. Questo dice Rabbah. Ora, quando la Gemara arriva alla nostra Mishnah, che dice, se tu leggi lo Shema, ma non perché stai leggendo lo Shema, perché stai leggendo il Sefer, e esci l'obbligo della mitzvah, c'è la clausola, la condizione, im kiven libo, se ti sei tenuto in mente l'intenzione, allora esci d'obbligo, ma se non te lo sei tenuto in mente, allora non hai l'intenzione, non esci d'obbligo. La nostra Mishnah contraddice quanto detto da Rabbah nel trattato di Rosh Hashanah. Perché Rabbah dice, se tu suoni lo shofar per fare musica, ti vale anche come mitzvah, anche senza avere l'intenzione. Invece dalla nostra Mishnah vediamo, mitzvot, tzerichot, kavanah. Questo è un termine importante da ricordare, mitzvot, tzerichot, kavanah, una grande discussione nel Talmud e nell'Halakha, se una mitzvah richiede kavanah per essere valida, o mitzvot enan tzrichot kavanah, oppure le mitzvot non richiedono la kavanah specifica per essere valide. Qui non entriamo nella discussione generale, ci teniamo allo Shema e in questo caso anche allo Shofar. Da qui, dalla nostra Mishnah, la Gemara vuole portare la prova che Rabbah non ha ragione. Ricordiamoci, Rabbah, bisogna ricordare la gerarchia di come funziona, potete se volete scrivere. Rabbah è un Amorà, gli Amoraim, plurale, sono i maestri del Talmud che sono successivi cronologicamente alla Mishnah. I maestri della Mishnah si chiamano Tanaim. Una Morà non ha l'autorevolezza e l'autorità di contraddire una Mishnah. Ciò che è chiaro nella Mishnah rimane chiaro e non può essere contraddetto da una generazione successiva, cioè dagli Amoraim. Allora, Rabbah è arrivato a questa conclusione. Ora la Gemara dice: forse Rabbah ha sbagliato. Perché? Ecco la prova: la Mishnah contraddice la sua posizione. Ok? Allora, in altre parole, noi stiamo parlando dello Shema nella nostra Mishnah. La Gemara ora non sta parlando dello Shema. Sta dicendo da questo, in un'altra discussione, da quanto ha detto la Mishnah, possiamo dedurre che lì, nel caso dello shofar e in generale nelle mitzvot, Rabbah non ha ragione. Le mitzvot richiedono kavanah. Dov'è la prova? Ecco, la nostra Mishnah dice: Im kiven libo, solo se hai avuto l'intenzione. Se non hai avuto l'intenzione, non esci l'obbligo. Ora la Gemara dice: non è una prova contro Rabbah. Quanto abbiamo detto nella nostra Mishnah non contraddice necessariamente quanto ha detto Rabbah. Perché? La Gemara analizza meglio le parole della nostra Mishnah. Dice la Gemara: mai, qual è il significato? Mai in aramaico è come ma in ebraico. Cosa? Qual è? Qual è il significato delle parole im kiven libo, se lui ha tenuto in mente l'intenzione? La Gemara dice: non è come tu pensavi che il significato è che ha tenuto in mente di uscire l'obbligo la mitzvah dello Shema. No! Non questo intende dire la Mishnah. La Mishnah intende dire l'ikrot, che ha tenuto in mente la lettura. Solo se ha tenuto in mente l'attenzione della lettura, allora esce l'obbligo. Ma non stiamo parlando dell'intenzione di fare la mitzvah o non fare la mitzvah. Ma questa cosa che la Gemara dice, tenere in mente la lettura, non è chiara. Che vuol dire tenere in mente la lettura? No, Perché si ricordava che un momento l'aveva fatto. No, no, non parliamo più della mitzvah, parliamo della lettura. Il soggetto qua è la lettura, non è lo Shema. non teneva conto dei punti nel Nukudot. Oh, vediamo, su questo c'è una discussione. Aspetta. La Gemara subito attacca questa posizione dicendo: Likrot? Che vuol dire in tenere in mente la lettura? Ve ha kakare, ma sta leggendo. Che vuol dire deve avere l'intenzione di leggere se già sta leggendo? È ovvio che tu non puoi leggere senza avere l'intenzione di leggere, mica leggi per sbaglio, per errore, guardi di là e leggi di qua. Non esiste. È chiaro che se tieni in mente l'idea di leggere, se sta leggendo, è ovvio che hai l'intenzione di leggere. Cosa intendi dire? Chiede la Gemara a chi ha proposto questa spiegazione. Allora la Gemara spiega. Becorè le Haggia. Stiamo parlando di uno che sta leggendo, Becorè, sta leggendo il Sefer. Perché lo sta leggendo questo Sefer? Non come pensavamo perché sta studiando la Torah e non c'erano i libri, eccetera. No. Becorè le Haggia. Le Haggia vuol dire per controllare. Sta controllando se questo Sefer è kasher. E bisogna vedere parola per parola, lettera per lettera, se è tutto valido. Allora, bravissimo, Caso non ha intenzione. non ha intenzione di leggere, ha intenzione di controllare, che sono due cose diverse. Allora la Mishnah dice, se tu stai controllando il Sefer e arrivi al punto in cui c'è scritto lo Shema, e tu hai in mente non solo di controllare, ma anche di leggere, allora esci d'obbligo. Ma non perché le mitzvot richiedono kavanah, non c'entra niente con quella discussione che Rabbah ha detto nel trattato di Rosh Hashanah, che tu, anche se canti con lo shofar, se suona qualcosa, sei esci d'obbligo, anche senza l'intenzione. Non entriamo in quel discorso, non entriamo nel merito, non c'entra niente con la nostra Mishnah. La nostra Mishnah sta dicendo tutt'altra cosa. Che se tu leggi per controllare, per poter fare la mitzvah, devi aver letto per leggere. Una lettura di per sé e non una lettura che è legata a un controllo. Ora vediamo che differenza c'è. Se voi guardate Rashi, Rashi trovate a destra della pagina classica. In particolare il Rashi che è intitolato Becorè le Haggia, perfetto. No, sulla pagina classica. Ok, lo vedi con lui, un attimo. Becorè le Haggia. No, di là. Aia, vedi, aia, dall'inizio da qui. No, no, Rashi. Sì, però bravo. vedi qua. Ecco, allora, Becorè le Haggia, si tratta di uno che sta leggendo per controllare. Rashi aggiunge le parole come se allungasse la frase del Talmud dicendo Becorè le Haggia et ha-Sefer, sta leggendo per controllare quel Sefer, im yesh bo ta'ut, per vedere se c'è in quel Sefer un errore, ta'ut, un errore. Quindi, Rashi conclude, Deafilu likriya nami la mitkaven, che neanche per la lettura ha in mente il controllo accurato che lui deve fare, quindi non sta pensando a leggere, sta pensando a correggere eventuali errori che lui potrà trovare. Allora la Mishnah ci sta insegnando, appunto, che lui deve leggere le parole proprio come lettura normale, intenzionata per lettura, per escere l'obbligo della lettura dello Shema. Perché? Ci sono due motivi. Due modi di vedere la motivazione di questa cosa. Alcuni maestri che rientrano nella categoria di maestri che si chiamano Rishonim. Rishonim sono maestri successivi alla chiusura del Talmud anche, cioè molto dopo gli Amoraim che abbiamo detto prima. Rishonim, Rishonim vuol dire i primi, si intende i primi commentatori come Maimonide, Rambam, Rashi, sono Rishonim, Tosfot, altri grandi maestri di questa epoca, diciamo dall'inizio medioevo fino al mezzo, fino a, diciamo intorno a 1400, 1000, quasi 500 così. Tra questi Rishonim troviamo due scuole di pensiero su perché, su cosa vuol dire legge per controllare e che non va bene. Da una parte abbiamo, secondo Rashi e altri grandi Rishonim, l'idea che la persona, visto che le parole forse le sta dicendo mentre controlla il Sefer, però la sua intenzione nel dire queste parole è per controllare se sono scritte bene. Allora è come se non ci fosse legame tra una parola e l'altra. Lui deve soprattutto vedere se le lettere sono intatte, se le Sta parole sono leggendo un giuste. testo unico. Non sta leggendo un testo unico, bravo, è una lettura di controllo, di revisione. Editing. Editing, perfetto. Mentre invece c'è un'altra scuola di pensiero e quindi non è sufficiente, devi avere l'intenzione di una lettura normale. Mentre invece c'è un'altra scuola di pensiero che è qui sui Tosafot, che è questo che diceva David, che quando una persona legge per controllare, spesso non legge neanche le vocali nella maniera giusta. Quindi, per esempio, se noi dobbiamo controllare una mezuzah, ok? Allora sulla mezuzah c'è scritto Ve'ayu le-Tosafot be'enecha. Però la prima volta che c'è scritto Tosafot c'è scritto senza Vav. E deve essere scritto senza Vav. Allora io posso leggere Totefet perché sto controllando e voglio essere sicuro che non c'è la Vav. Allora leggo come se non fosse, come se fosse vocalizzato in maniera diversa. Invece nel Ve'ayam Shamoa dove c'è la Vav lo leggo Totafot perché devo differenziare. Oppure prima c'è scritto mezuzot senza la seconda vav, allora mezuzat. Posso leggere mezuzat per essere più sicuro nel mio controllo. Allora è chiaro che lì ancora di meno c'è la lettura dello Shema, perché non è proprio vocalizzato nella maniera che si legge il Sefer e lo Shema e la Mitzvah. Di conseguenza, se ho letto le Agia per controllare, ho fatto una lettura diversa. In kiven libo. Se invece ha l'intenzione di likrot, di leggere, non di controllare ma di leggere, allora esco l'obbligo. E di nuovo non c'entra con il discorso di avere l'intenzione per fare la mitzvah. Stiamo parlando dell'intenzione di una lettura vera e propria. E quindi la Gemara respinge ciò che volevamo fare. Cosa volevamo fare? Volevamo trarre da qui una prova per, contro la posizione di Rabbah, che diceva nel trattato di Rosh Hashanah che chi suona lo shofar anche senza l'intenzione esce l'obbligo. Dalla nostra Mishnah non c'è la contraddizione, perché la nostra Mishnah parla di un'altra cosa, non della intenzione delle mitzvot, bensì di un fatto specifico alla lettura. Qui la Gemara chiude questo discorso. E potete vedere il fatto che la Gemara chiude questo discorso guardando nella pagina classica, ci sono due puntini dopo questa frase, Becorelle Agia, due puntini indica conclusione del discorso. Lo vedete? La seconda riga, abbiamo iniziato Gemara, abbiamo fatto una riga sola. Subito all'inizio della seconda riga, Becorelle Agia, boom, due puntini, vedete i due puntini? Questi due puntini nella Gemara indicano fine del discorso, come se fosse riga a capo. A capo della riga. Quindi non abbiamo ancora capito se si esce d'obbligo anche non avendo intenzione. Esatto, non è una discussione che riguarda la nostra Mishnah. Non di questo stiamo parlando. Ne parleremo un pochino più avanti, invece. Però quello che la Gemara diciamo, è arrivata alla conclusione è che la prima parte di questa Mishnah non è una regola che riguarda l'intenzione della mitzvah, è una regola che riguarda la lettura. Ok? Dimmi. È ragionevole perché comunque tutto il discorso era partito da, Sì? cioè è stato affrontato l'argomento giusto in questa, In che se senso no si l'argomento giusto? sviava, cioè, perché comunque cronologicamente si era partiti dall'interruzione dello Shema Sì? alla struttura dello Shema, Sì, ma questo era prima della. sì, e poi dopo a sempre All'intenzione? alla lettura dello, sempre riguardo alla lettura dello Shema qua. Poi dopo si è arrivata alla domanda dell'intenzione, però comunque non Allora, è aspetta, nella Mishnah la prima cosa era questa cosa qui della lettura. Hayah Koreh Batorah. esatto la Ok. lettura, però il punto principale che si stava affrontando non era se uno usciva d'obbligo della lettura, in che modo usciva d'obbligo con la lettura dello Shema, ma era in Era che modo dell'interruzione. era dell'interruzione. Ok, però questo stai dicendo tu che quello era il punto principale. Forse sono vari punti principali nella Mishnah, Non è no? così. Non è necessariamente che un punto è più principale dell'altro. Ogni punto è a sé. Guardiamo anche questo Tosfot, questo commento di Tosfot che nella pagina classica a destra, Becorele Agia, scusate, a sinistra, Becorele Agia intitolato nel parole grandi, più su. Ok, più. Più eccolo qui, Becorele Agia. Lo vedete? Ok, allora Tosfot dice così. Le Corelle Aghia. La Gemara è arrivata alla conclusione che questa persona sta leggendo per controllare, giusto? Dicono i Tosfot, i maestri dei Tosfot, Piresh Bakuntres. Nel quaderno diede la spiegazione. Qual è il quaderno? Il quaderno è un riferimento a Rashi. Rashi era prima, non era vicino al Talmud come oggi. A quell'epoca era un quadernino che la gente usava per accompagnare allo studio della Gemara stessa. Rashi inizialmente l'ha diffuso in questa maniera, un quaderno su questo trattato, un quaderno su quella Torah. Quadernini, con tres, come un quadernino, un fascicoletto. Allora, i Tosfot lo chiamano proprio la spiegazione del quaderno. E questo è un riferimento a Rashi. Allora, è scritto nel quaderno, cioè è scritto in Rashi, Shen mitkaven likrot. Che quando la Gemara dice che non ha avuto l'intenzione di leggere, che ha avuto l'intenzione di controllare, Rashi dice non aveva l'intenzione di leggere, leggeva ma senza intenzione, come abbiamo visto che Rashi spiega, no? E Tosfot dice, Teima, questo ci meraviglia questa spiegazione, perché Akate comunque ancora, ha-ka-ka-re, comunque sta leggendo. Come l'ha spiegata Rashi, comunque la lettura la sta facendo. È vero che la sta facendo per controllare, ma la sta facendo. Allora Tosfot dice, si applica la stessa domanda che faceva la Gemara. Che vuol dire non hai l'intenzione di leggere se non puoi leggere senza aver l'intenzione di leggere? No, questo adesso lo dirà lui, questa è la sua spiegazione. Io ve l'ho detto prima a voce. Questa è la fonte scritta. Riguarda sempre però se uno mette Kavanah o no, pure Abbiamo detto che non stiamo parlando di Kavanah. però l'intenzione era quando uno mette Ma non stiamo parlando di Kavanah. Questo no. abbiamo già detto prima. Ok? Sì. Allora non riguarda se mette la Kavanah. L'intenzione non inteso come Kavanah, come concentrazione, inteso come l'idea di voler fare quella cosa. Basta. Allora Tosfot dice, Al ken nireh, perciò sembrerebbe la seguente spiegazione, non come Rashi, cioè Becorè Leaghia, il senso di leggere per controllare, è proprio se eino kore hatevot che il Chatan uki nekudatan, che non sta leggendo le parole come sono scritte e come sono punteggiate, non le sta leggendo in quella maniera, solamente bensì ela kichtivatan kare. Le sta leggendo così come sono scritte, come se non ci sono come se non ci fossero le vocali, che delle havin, per poter essere chiaro, bachaserot u bayeterot, dove ci sono nel sefer scritte le parole con chaser, chaser vuol dire con la mancanza di una lettera, come se mancasse una vav, o bayeterot, dove c'è invece in più una lettera. E questo lo può fare leggendo non nel senso della vocalizzazione della parola vera e propria, ma inventando un'altra vocalizzazione per usarlo come segno di se c'è quella vocale o meno. E Tosfot fa l'esempio che vi dicevo, che mo le tatafat, dove non c'è la vav, c'è scritto le totafot nella vocale, però per essere sicuro che è scritto bene senza le vav, lui può leggere le tatafat o le tatefet, un altro modo. Oppure un mezuzat invece di mezuzot, anche se il senso vero è mezuzot, però lui lo legge in un'altra maniera per essere sicuro che il sefer è scritto bene. E quindi ripete di nuovo, spiega il Tosfot, im kiven libo, quando la Mishnah dice im kiven libo se ha avuto l'intenzione in cuor suo, lav dafka non è inteso come una cosa che deve fare apposta ad avere la kavanah, no, nell'intenzione. E là, solamente il senso è che l'omar, il senso è per dire, likrot kedin, kinekudatan, kadin, di leggere così come bisogna leggere, kinekudatan o kelchatan, secondo la punteggiatura giusta della vocalizzazione e della loro vera lettura. Allora, se lui legge il sefer per controllare, però quando arriva il momento dello Shema, legge lo Shema nella punteggiatura giusta, esce l'obbligo della mitzvah. Questo secondo i Se Tosafot. lo dice con la vocalizzazione giusta, allora vale. Esattamente. Quindi il senso delle parole im kiven libo, se ha avuto l'intenzione in cuor suo, cosa è? Il senso è, se ha letto le vocali normali, se ha letto le parole normalmente, questo vuol dire, così come l'ho spiegato a Sfot. E quindi non stiamo parlando di nuovo qui di una questione di Kavanah della mitzvah, aver l'intenzione di uscire l'obbligo della mitzvah, no, stiamo parlando di una halakha relativa alla lettura. Sì, Alberto. Ma uno potrebbe trovarsi in una situazione che nel controllare, nel guardare per controllare, potrebbe non avere nemmeno bisogno, non so se sia contemplato, di non leggere vocali sì e no, ma con gli occhi è tanto sicuro Allora è e sicuro che tanto. non esce l'obbligo, senza No, no, no, dire. no, ma ecco, un motivo, lo dicevo proprio perché è un motivo in più per non uscire d'obbligo, se controlla a vista Allora lì, in quel nel caso caso, che lui controlla il con Sefer solo con gli occhi, sì, non è esatto. neanche contemplato che possa uscire d'obbligo. Infatti la No, Mishnah, lo dicevo per non uscire d'obbligo, sì, benissimo. fa parte Non è neanche contemplato, è sicuro che non esce d'obbligo. Infatti, se noi guardiamo la parola che la Mishnah usa, Haya Koreh Batorah, se stava leggendo, se stava guardando le parole, non è neanche maggior ragione, contemplato. insomma, ecco, in Sì. quel caso. Altre domande su questo pezzo? Ok, allora procediamo. Prossimo pezzo della Gemara. Sempre sulle regole dello Shema. Qui ci agganciamo in maniera indiretta alla nostra Mishnah. Ora vediamo, parleremo di alcuni aspetti di come è fatta la mitzvah dello Shema. Allora, la Gemara dice Tanura Banan. Ricordate come si chiamano i maestri della Mishnah? Tanaim. Qui abbiamo la parola Tanu, Tanu Rabbanan. Una baraita. Esatto. I maestri hanno insegnato, però per dire insegnato, eh? Tosfot è un rishonim. Tosfot è uno dei Rishonim, sì, sono dei Rishonim. Tosfot sono vari Chachamim, non è solo un autore. Tanaim dicevi maestri. Maestri dell'epoca della Mishnah. E per questo abbiamo usato qui il termine Tanu Rabbanan. I maestri hanno insegnato, ma con il termine di Tanà, che è lo stesso termine di Mishnah, solo in aramaico, che alcune parole, la Shin, in aramaico diventa una Tav. Allora, Tanu in ebraico sarebbe Shanu, che vuol dire hanno insegnato, come Mishnah, hanno ripetuto, come Mishnah. Ora, quando la Gemara introduce un insegnamento con queste parole Tanura Banan, la Gemara sta introducendo una citazione di una Baraita. Una Baraita è una fonte parallela alla Mishnah, cioè una fonte che gli autori di questa fonte sono gli stessi maestri citati nella Mishnah, sono sempre i Tanaim, solo che non tutte le Beraitot sono entrate nel, diciamo così, canone della Mishnah. Quando è stata fatta la redazione della Mishnah, molti insegnamenti sono rimasti fuori dalla Mishnah vera e propria e si chiamano quindi Baraitot. Baraita viene dalla parola bar, che vuol dire all'esterno. Quindi sono delle fonti autorevoli, importanti, ma un livello minore di importanza rispetto alla Mishnah. Rimasto fuori dalla Mishnah. Invece raccolte in altre opere, raccolte moltissime Braithot nella Gemara, perché dalle Braithot noi possiamo capire spesso il senso di una Mishnah. Visto che la Mishnah vuole essere estremamente breve e molto molto esatta nella scelta delle parole, spesso la Braita ci aiuta ad allargare ciò che la Mishnah ha detto in maniera concisa e brevissima. Ora, cosa vediamo nella Braita? Tanura Banan, maestri hanno insegnato appunto in una baraita. Kriyat Shema Kichtava. La lettura dello Shema va fatta quando noi abbiamo la mitzvah di leggere lo Shema, la dobbiamo fare Kichtava, così come è scritta, nella maniera in cui è scritta. Che vuol dire così come è scritta? In ebraico, così come l'originale sulla Torah, non in un'altra lingua. Faccio una piccola premessa. Non arrivare a conclusioni alachiche da quello che stiamo studiando qui. Questa è, come ho detto l'altra volta, queste sono le budella dell'alacha. Non è la conclusione, questo è il processo. Cosa c'è dietro? Per l'alacha studieremo in un altro contesto. Qui stiamo parlando della discussione. Allora, la Braita dice, lo Shema va letto così come è scritto. Kichtava. Tutti sono di questa opinione? No? Questo divrei Rabbi. La Braita dice questa è l'opinione di Rabbi. Rabbi è Rabbi Yehuda Hanassi, il redattore della Mishnah, uno dei più importanti Tanaim. Ok? Lui, Rabbi, dice per essere l'obbligo della mitzvah dello Shema deve essere letto, recitato nella maniera in cui è scritto. Punto. Però la maggior parte dei maestri non sono d'accordo. Vachachamim omerim. Mentre invece gli altri chachamim, gli altri saggi dicono Bechol Lashon. Se si leggesse lo Shema in qualsiasi lingua si uscirebbe comunque l'obbligo. Bechol Lashon, in ogni lingua, in qualsiasi lingua. Questa è la fine della citazione della Baraita. Fino a questo punto abbiamo citato le parole della Baraita. Ora la Gemara approfondisce il senso di questa Baraita, ovvero entra nel perché di questa discussione e le possibili conseguenze. Ok? Ok, la Gemara dice così. Mai ta ma de rabbi? Ricordate mai vuol dire in aramaico come ma in ebraico, no? Mai ta ama, come in ebraico ma ta'am. Qual è il motivo? Qual è il motivo della posizione di rabbi? Ovvero che va letto lo Shema nella lingua in cui è scritto. Allora la Gemara dice, ricordiamoci un'altra cosa, Rabbi non è presente qui nella Yeshiva del Babilonia dove stiamo facendo questa discussione. La Gemara sta parlando per lui. Qual è la motivazione di Rabbi? E la Gemara dice la motivazione di Rabbi sarebbe stata così e così. Non è Rabbi stesso che sta parlando. Allora dice la Gemara, qual è il motivo di Rabbi? La Gemara dice, spiega, Amarcherà, visto che il versetto dice, proprio nello Shema, il versetto dice Vehayu, è scritto Vehayu adevarim aele, vero? Vehayu adevarim aele vuol dire, e saranno quelle parole. Allora la Gemara dice, visto che è scritto Vehayu, Bahavayatan Yehu, nel modo in cui sono, così devono rimanere. Cioè, lingua originale, in ebraico. Ovvero, bisogna leggerle così come sono. E solo così si esce l'obbligo dello Shema. Questa sarebbe stata la motivazione di Rabbi. Allora sembra una ottima motivazione, allora perché i maestri non sono d'accordo? Bisogna capire qual è la loro motivazione, che invece dicono no, si può leggere in qualsiasi lingua. Subito la Gemara affronta questa domanda. Verrabbanan e i nostri maestri, gli altri chachamim, mai tamaihu, qual è la loro motivazione? Tamaihu è la stessa cosa come abbiamo detto prima, ma plurale, perché sono molti i maestri. Mai tamaihu, qual è la loro motivazione? Beh, dice la Gemara, anche loro hanno un versetto a cui si possono appoggiare. Amarcherà, il versetto dice Shema. Che vuol dire Shema? L'altra volta abbiamo detto che la parola Shema ha diversi significati. Uno dei significati della parola Shema è capire, comprensione. Allora la Gemara dice, loro ti potrebbero dire, i maestri, Bechol lashon she'ata shomea. Shema devi sentire, cioè devi ascoltare. Qualsiasi lingua che una persona sente e capisce è la lingua in cui può dire lo Shema. E esce l'obbligo della mitzvah. Bechol lashon she'ata shomea. Parola chiave Shema, shomea. Quello che tu capisci. Quello che tu senti per capire. Allora, come siamo rimasti? Cioè, stanno in discussione, lui dice questo è più importante, loro dicono questo è più importante. Però la Gemara, se appoggia l'opinione di Rabbi al fatto che è scritto Vehayu, che le parole devono essere così come sono, e appoggia la teoria, l'opinione dei Chachamim al fatto che è scritto Shema, che tu devi capire, allora alt, dobbiamo chiarire ulteriormente. Se Shema ha questo senso, allora, contraddizione, scusa, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda Nasi, Rabbi, non devi capire quello che stai dicendo, c'è scritto Shema, come fai a dire che lo devi dire solo in ebraico? La Gemara deve offrire una presa di posizione, una risposta per rispondere a questo problema. È quello che la Gemara fa adesso. La Gemara dice, Ule Rabbi Nami, ma anche per Rabbi è scritto quella parola Shema, Aktiv Shema. Mica solo per loro è scritto Shema per tutti. Allora anche per Rabbi è scritto Shema, quindi nel senso in teoria dovrebbe avere quella idea, quel significato che deve essere in qualsiasi lingua, non solo in Lashon HaKodesh. Allora la Gemara dice, certo che è scritto Shema anche per Rabbi, ma Rabbi potrebbe dirti che lui usa questo termine Shema per insegnare un'altra cosa. Vediamo cosa. Cosa potrebbe insegnarti? Dice la Gemara, Ahu, quello lì, ovvero quella parola di Shema, mi baiele, gli serve a Rabbi per un altro insegnamento. Cosa gli serve per insegnare? Hashma le osnecha, ma she'ata mozzi mi picha. Fai sentire alle tue orecchie quello che fai fuori uscire dalla tua bocca. Ovvero, secondo Rabbi, il termine Shema ci insegna che le parole dello Shema, come dicevamo anche prima, vanno pronunciate almeno minimamente a voce per poterle sentire, non vanno lette con gli occhi. Questa non è poi pura alakha, no? Eh? Cioè poi non è Questa è pura alakha. alakha? Sì, poi questo è anche alakha. Assolutamente sì. Quindi, secondo Rabbi, la parola Shema ci insegna che cosa? Che va pronunciato, va letto a voce. Perché è chiaro che il senso della parola Shema è anche quello di sentire, oltre al concetto di comprensione, c'è il senso semplice di Shema, sentire. Quindi non stanno più in contraddizione. Sentire per capire. No, diciamo che una vera contraddizione tra di loro non c'è, perché è una discussione. In realtà hanno il diritto di stare in discussione, perché sono maestri di pari livello, sono tutti Tanaim. Quindi non è che puoi contraddire la posizione di un altro nei rispetti dell'altro, non puoi dire. Come dicevamo prima con Rabbah, se la Mishnah ha detto così e Rabbah, che è un Amorà, ha detto il contrario, si rifiuta la posizione di Sì, Rabbah. ma in questo caso non stanno In dicendo due questo cose caso, diverse. Viene posto il quesito. No, stanno stanno dicendo due dicendo cose due cose differenti. diverse, perché Rabbi dice puoi leggere lo Shema In in solo nella solo in Shona Kodesh. Kitavah, così come è scritto, solo in ebraico. E i maestri dicono no, lo puoi leggere in qualsiasi lingua. Però l'appoggio sul quale la Gemara fa appoggiare queste teorie, l'appoggio testuale, se è scritto Vehayu, che deve rimanere così, o se è scritto Shema, che lo devi capire, cioè quello tu puoi interpretarlo che lo devi capire, ma io lo interpreto in un'altra maniera, non sono tenuto a tenere quella interpretazione, perché ce n'è un'altra, ovvero sia in questo caso specifico, qual è l'altra interpretazione? Sentire, devi pronunciare, però sono sempre dell'opinione che lo devi dire in ebraico, dice Rabbi. Allora, in realtà, quando la Gemara vuole capire come uno affronta il senso testuale di quella parola e come l'altro lo affronta, è perché noi abbiamo sollevato il discorso che esiste questa parola, Vehayu, per esempio. E a questa parola possiamo appoggiare una halakha. Vehayu, che devono rimanere quelle parole così come sono. Allora, se io appoggio quella halakha a quel versetto, faccio trarre come derashah si chiama, questa halakha da questo versetto, è chiaro che chi non ha questa opinione deve comunque spiegarlo in qualche maniera. Sì, può dire sì, io rimango nella mia posizione, però scritto così. Ok? Scritto così, però io interpreto in un'altra maniera. Ok, va bene, allora rimani nella tua posizione. E questo è quello che sta succedendo qui. Ora però abbiamo chiarito, diciamo, la posizione di Rabbi, perché Rabbi ha detto Secondo me, veayu vuol dire che le parole devono essere quelle. E i maestri hanno detto no, perché siccome è scritto Shema, tu devi capire. Allora siamo tornati da Rabia, abbiamo detto scusa, ma non devi capire? Se no, Shema non vuol dire che devi capire. Shema vuol dire che devi sentire. Benissimo, allora Rabbi è chiara la sua posizione. Ora però, dobbiamo dire scusa a Chachamim, ma non c'è scritto veayu che devono rimanere così come sono le parole? Come fai a dire che le puoi dire in qualsiasi lingua? Vediamo adesso. Però prima di fare questo, la Gemara dice un altro punto che i maestri devono rispondere. Lo Shema va pronunciato. E se lo impariamo da Shema, come Rabbi dice, la parola Shema vuol dire che devi sentire, quindi devi pronunciare le parole, allora decade quello che dicono loro che Shema vuol dire che devi sentire, devi capire, concetto di comprensione. Cioè loro da dove traggono l'idea, dove appoggiano l'idea che Shema va detto, pronunciato? Questa è la prima cosa che adesso la Gemara affronta. Voi maestri, che ne fate di questo? Ok? Chiaro dove siamo? Dice la Gemara, Verrabbanan Savre, i nostri maestri sono dell'opinione, Savre Lehu, loro sono dell'opinione, che mande Amar così come l'opinione che sostiene, lo ishmia le osno yatza. Che una persona lo ishmia le osno, se non ha fatto sentire al suo orecchio le parole dello Shema, comunque yatza, esce l'obbligo. Ovvero anche su questo c'è una discussione, se bisogna per forza far sentire al proprio orecchio le parole dello Shema, esiste una opinione che sostiene che non deve essere così per forza, e quindi anche se non lo si è fatto, si esce comunque l'obbligo. I maestri sostengono come questa posizione qua. E quindi non hanno bisogno del termine Shema per insegnare che devi sentire. Loro non sono dell'opinione che devi sentire. E allora sono liberi a utilizzare quel termine di Shema per insegnare che devi capire la lingua. E quindi che puoi uscire l'obbligo anche dirlo dicendo lo Shema in un'altra lingua. Ok? Ora torniamo sempre contro la posizione dei Chachamim per capire, come dicevamo prima, cosa fanno con il senso Vehayu. Che Vehayu, abbiamo detto, secondo Rabbi, vuol dire le parole devono essere così come sono. Così come sono vuol dire Belashon HaKodesh, nella lingua originale, secondo come Rabbi lo vedeva. Allora, la Gemara adesso fa questo passaggio qui. Ule Rabbanan Nami, ma anche per i Chachamim HaKetiv VeHayu. La parola VeHayu non è mica scritta solo per Rabbi, è scritta anche sulla Torah che leggono i Chachamim. Allora, che vuol dire per loro VeHayu? Perché non possono arrivare alla stessa conclusione di Rabbi che dice VeHayu e il senso è che deve rimanere in quella lingua? Risponde la Gemara. Ahu mi bae lei, ahu, quella parola di Veayu mi bae lei, le serve a loro per insegnare un'altra cosa. Cosa ci insegna Veayu oltre, non come Rabbi, che Veayu ci insegna deve essere quella lingua, devono rimanere così come sono. Bensì, Veayu ci insegna un'altra halakha, cos'è? Shelo yikra le mafrea, che non si legga lo Shema a ritroso. Cioè, al contrario, come se uno dicesse, come se uno leggesse per esempio, Ubi Shearecha, Ubi Shearecha, le parole così, Al Mezuzot Betecha Ubi Shearecha, allora lui dice Ubi Shearecha, Betecha, Mezuzot, al contrario, al ritroso. Se uno l'avesse fatto, non è uscito l'obbligo. Da dove si capisce che non esce l'obbligo? Da quanto è scritto, Vehayu, dicono i Chachamim, che devono rimanere in quell'ordine, non in quella lingua come diceva Rabbi, ma bensì in quell'ordine. Secondo Rashi, le mafrea, se voi vedete Rashi che dice, le Rashi non lo dice qua, lo dice... Sì, Dvarim Advarim. Ubisharecha betecha mezuzot, no? Come dicevo. Cioè se uno lo legge proprio le parole al contrario. In altre opinioni, sempre di Rishonim, come Rabbeinu Yonah, che è un allievo del famoso Ramban, Nachmanide, Rabbeinu Yonah dice che il senso è che legge i versetti in ordine diverso. Cioè il versetto stesso lo legge nell'ordine giusto, però un versetto prima dell'altro non nell'ordine corretto. Questo secondo Rabbeinu Yonah. Invece, secondo molte opinioni, se invece si cambia l'ordine del brano proprio, si esce l'obbligo. Yotzim Yedehovah. Se uno legge Vayomer prima di Veayah, come cambiamento di paragrafo, di ordine dei paragrafi, uscirebbe l'obbligo, secondo molti Rishonim. Invece, quando diciamo qui a ritroso, non si intende quello, ma si intende o proprio le parole, come dice Rashi, o comunque un versetto fuori luogo, fuori ordine dell'ordine normale. E i Chachamim appoggiano questa halakha. E lo traggono come derashah dalla parola vehayu, che devono essere nel rimanere nell'ordine giusto, e non che vehayu devono essere nella lingua originale, come diceva Rabbi. Ora, qual è la prossima fase, secondo voi, di questo discorso? Ancora non siamo pronti per la conclusione. È rimasto adesso qualcosa in No, sospeso? devo dire Kamin perché per loro non va pronunciato a favore. No. No, quello già hanno Allora hanno detto. detto, noi non siamo dell'opinione che deve essere detto, noi siamo dell'opinione che può essere detto anche a bassa voce. Basta, hanno schivato il problema. Però non ha detto che imparano. No, hanno detto che mande Amar, c'è un'opinione che dice così, allora dobbiamo andare a Allora vedere chi è quell'opinione e quali sono le chiede sue al Rabbì motivazioni. che ne pensa di leggere il ritroso. Oh, bravo. Se Vehayu vuol dire secondo i maestri, Secondo l'ordine è me. corretto, come fa a sapere Rabbì che deve essere l'ordine corretto? Quel poco che hai detto di rabbino sarà certo Allora la Gemara dice Verabì, e invece Rabbì, per Rabbì Veayu vuol dire che deve essere in lingua. Però Shelo Yikra Lemafrea, il fatto che la persona non possa leggere lo Shema e uscire l'obbligo facendolo a ritroso, Mennale, da dove lo sa lui? Da dove trae questa halakha? Se lui già Vehayu la usa per un'altra derashah, per il fatto della lingua, allora la Gemara dice c'è un'altra parola nello Shema che lui può usare per arrivare a questa conclusione. Qual è la parola? Nafkale, lui lo estrapola, cioè tira fuori, deduce questa halakha, mi devarim haddevarim, che vuol dire devarim haddevarim. Allora è scritto Vehayu Ha-devarim ha-ele. La Gemara sta dicendo che nello Shema avrebbe potuto dire Vehayu devarim ha-ele, senza usare la hei ha-devarim, che indica il soggetto. Vehayu devarim ha-ele alevaveha. E sarebbe stato lo stesso significato, praticamente. Se la Torah aggiunge una hei, ci deve essere un motivo. Quindi devarim. E invece di dire Devarim, la Torah dice Ha-Devarim. Da questo fatto che la Torah aggiunge questa Hei, anche se avesse potuto non aggiungerla e rimanere solo con Devarim, la Torah vuole sottolineare Ha-Devarim, proprio questo ordine così com'è. E non in un altro ordine, non va bene leggerlo a ritroso, lemafrea. Quindi secondo Rabbi si potrebbe arrivare alla stessa conclusione, ma senza togliere la derashah di Vehayu, che vuol dire la lingua, secondo lui, da un'altra parola, dalla Hei, Devarim, Ha-Devarim. Queste parole così come sono. Ok? Tutto bene? Benissimo. Cosa ci apre adesso un'altra domanda, di conseguenza? Come interpretano i maestri Devarim, Ha-Devarim? Scusa, se c'è una Hei in più, mica si sa per niente. Ecco perché sono 40 volumi. Cosa è la Hei? Secondo i Impone. Chachamim? Devarim, Devarim. Allora la Gemara non pone la domanda, la Gemara dice subito la risposta, perché la domanda è sottintesa. La Gemara dice Vera Banan, mentre invece i nostri maestri, Devarim, Ha Devarim, la Darshe, sono dell'opinione che qui non c'è una drasha valida. Per loro, questa conclusione alla quale la Gemara arriva per via della posizione di Rabbi, dicono no, non è necessario dire che questa hey è in più. Non è che sarebbe stato liscio dire Devarim vayu Devarim ha'ele, non sarebbe stato liscio. È più corretto e più giusto dire vayu ha Devarim ha'ele per quello che la Torah vuole dire, senza entrare in tutto un discorso di una derashah che ci sta dietro. Quindi la darshele non accettano questa cosa come derashah. Allora cosa a questo punto abbiamo chiarito? Che effettivamente c'è una discussione tra Rabbi e i Chachamim, come è l'alakha che riguarda la lettura dello Shema, se deve essere in lingua o se può essere anche in un'altra lingua. Quindi allora l'alakha normalmente quando c'è una discussione tra un maestro e un maestro unico, singolo, e più maestri, come in questo caso i Chachamim contro Rabbi, allora normalmente Yahid ve Rabbim, Halacha ke Rabbim. Normalmente quando c'è una discussione tra maggioranza e unica opinione minoranza, allora l'Halacha segue i maggiori, il numero maggiore. E anche l'Halacha è codificata in questa maniera che esce l'obbligo di lettura dello Shema anche leggendolo in un'altra lingua, anche se comunque si fa molta attenzione a leggere lo Shema in ebraico, però se questo non è possibile, si esce l'obbligo anche leggendolo in un'altra lingua. Bravo, La conclusione è che sarebbe meglio la conclusione alachica. ascoltarlo. La conclusione alachica è questa, sì. Anche ascoltarlo. Il fatto che deve essere pronunciato è anche halakha, sì. Allora concludiamo qui e poi la prossima volta approfondiremo ulteriormente questo discorso un altro po'. Questa discussione tra Rabbi e i Chachamim come può avere una conseguenza su un'altra halakha che vedremo, non solo sullo Shema. Toda Rabba. Rabbi, il fatto che c'è scritto su questa parte che comunque va letto nel Sì. senso Nell'ordine, nel nell'ordine senso. giusto e non Sì. nell'ordine inverso, può anche derivare l'alakà, quella che infatti sul Siddur ci sono delle pause tra una parola e l'altra in modo che non vengono lette nello Questo lo stesso. vedremo più avanti, questo non è per l'ordine, è per la chiarezza della parola, che non sembri un'altra parola diversa, che può avere un altro senso a volte, quando si uniscono la fine di una parola e l'inizio di un'altra con la stessa lettera, a volte assume un significato diverso e quindi va pronunciata bene la distinzione, la pausa tra le parole.